Che fai un laburotto in oggi? Beppe Antonio. E chi è? Io. Allora, sta a posto? Tutto a posto. E tu come va? Bene. Ero coricato. Io ho il mio bimbo. Lui è scivato dentro in camera da... Vado in sala e accendo l'altro, fammi di beso. Aspetta che scambio un attimo. Fai, già sono qua, ascolta. Oh, Antonello, non mi senti? Aspetta, Bobone. Senti, capa, sono arrivato in sala. Aspettando. Cosa fai? Ero un attimo di salone. Cappa, ci va bene. Ma che questa pernacchietta, Antonio? Ho capito. Ho detto, ma che questa pernacchietta? Sento... Adesso non lo fa più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non lo fa più, no, adesso va bene. E sto usando l'Echo Master, il microfono da tavolo. Ma dai, la bernacchietta, vado già. E intanto già la fa, si è messo la corte. Ok. Oh, mia mamma mia, ho addormentato nel mio figlio. La stanchezza. Oggi sono libero, so. Ormai sono al lavoro. Non so mai che c'è un cazzo, un giorno sì, un giorno no, mentre come te ne girare i coglioni. Dico la verità, è un mio decisione lavorare. Se lavori tutti i giorni, già è buono. L'importante è che non stai a casa, capito? Almeno più lavori, più soldi c'hai in mano. Il discorso è questo. Ma lavorare un giorno sì, un giorno no, ma come tende già a girare male, almeno. Non mi sta bene. Beh, un giorno sì, un giorno no, non per le balle sì. Io quando lavoravo al comune, tre volte a settimana, lavoravamo, quindi figurati, quindi facevo lunedì, lavoravo martedì no, mercoledì sì, giovedì no e venerdì sì. A un certo punto mi sono rotto e ho detto, ma se io vengo tutti i giorni cosa cambia? Gli ho detto. E dice, ma così finisce prima? Mi ha detto, ah, a me non me frega niente di finire prima, gli ho detto, ma mi è male, gli ho detto, fare così, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, e fare queste 4 ore, gli ho detto, dalle 8 sino a mezzogiorno. Allora, ho fatto testa mia, capito? Tutti i giorni e basta, fino a concludere il contratto. Io un po' tumbo perché non c'è abbastanza lavoro, ma non vedi che cade lo cazzo. Io domani comunque comincio già a dirglielo. Già ho saputo delle cose che... Cioè che a fine... Cioè da gennaio... Mi ha già i due che me l'hanno detto come si aggrappa a te e cosa. Io domani gli faccio il culo e gli dico, guarda che mi sto stufando con questa storia. Cioè io voglio lavorare tutti i giorni, non giorno sì, giorno no, giorno sì, giorno no. Vabbè, mi ha fatto comodo oggi perché mi sono fatto le commissioni e tutto, ma io volevo credere perché mi bisogna da fare di là, cioè no? Ma non ti ha girato di coglione, se non ci credono, cazzo di là, ma insomma. Vuol dire che c'è poco lavoro, capito? Magari stai incassando poco e quindi ti fa lavorare così. Se ti avrebbe fatto lavorare tutti i giorni, capito? No, basta buttare giù i frizzi, a me non me ne frega un cazzo. Cioè, basta buttare giù di un euro, ma a confrontare gli altri, perché siamo lì giocare. A confrontare io va meglio, dico. E lavoriamo anche noi, aumentiamo. Le bombe lavoriamo tutti e due. Come se non c'è, io ho già scappurato dalla madre, no, non è possibile, poi ho saputo questa romanzina, che loro non mi ha detto niente, però gli altri parlano, e dice, e cose, ma io dico, io ho saputo dagli altri, ho saputo, cioè io c'ho un bambino, ma mi dovete avvisare subito, se volete chiudere, ma cosa, mi dovete avvisare subito, non che mi avvisate dopo. E qualche, cioè adesso domani glielo dico, ma se è vero, poi agirò di conseguenza, vado a ripararmi, fanno, non c'è quanto travaglio. Beh, se vuole chiudere, ti devi avvisare prima, ti devi anche organizzare, non è che puoi stare così. Ti trovi un giorno all'altro senza, e ti telefono e ti dice guarda non venire più perché ho chiuso tutto. Ti devi avvisare almeno 3-4 giorni prima, così ti organizzi, capito? Vai tanto per dire a chiedere lì all'ufficio di collocamento se c'è qualche lavoro, ti fai la domanda, magari ti prendono e sei fisso anche a fare il verde urbano, tanto per dire. O questi appalti che devono dare, almeno ti fai la documentazione, la lasci all'ufficio di collocamento e poi aspetti che ti chiamino, se no così sei fregato, capito? Allora che ti fai la domanda di inclusione sociale e c'hai tutti i mesi c'hai 750 euro, capito? Guarda, io da quella mardace ho promesso di non andarci mai più. Ho fatto la promessa di non andarci mai più, io da quella mardace. Io vado, mi cerco il lavoro, non lo cerco da per me. Vado in giro, vado per le cose, mi cerco il lavoro, come ho sempre fatto. Quelle sono merdacce, insomma, non posso stare a aspettare un mese, due mesi, tre mesi che mi chiamino. Cioè, o non mi chiamano mai, io ho bisogno di mai, io ho un bambino, io ho bisogno di lavorare. Cioè, io non ne voglio manco sapere di questa storia. Beh, c'hai ragione, mica c'hai torto, c'è il bambino da campare, capito? Quindi, l'unica cosa è sapere prima in modo da organizzarti e cercarti qualche altro lavoro, capito? Almeno sei più tranquillo, fai uscendo da uno e entrando nell'altro. Non è solo bombolaia, sa se che ce ne sono tanti altri. No, non posso lavorare così. Cioè, sono delle bravissime persone, insomma, ma perché non dirmelo anche che volevo fare una cosa del genere? Cioè, perché lo devo sapere dagli altri? Domani come scendo, devo rimanere anche più presto perché io la verità, io voglio cantare 4, dico, cioè perché lo devo sapere dagli altri una cosa del genere? Che tu vuoi chiudere? Cioè, no, così non mi sta bene, già sto lavorando un giorno sì, un giorno no, e sto lasciando perdere, a me non mi va bene neanche quello, non mi va bene, se andiamo in fondo, e per dare spazio a tutti, però, perché non c'è lavoro, per dare spazio a tutti, però io se sento una cosa del genere, è come, sono venuto a te a lavorare e poi mi metti in merda, no. No, va bene, io ho saputo dagli altri, non da te, quello lì non è comportarsi bene, sono ma rispetto, insomma, la persona è bravissima, insomma, perché è corto, però sapendo io questo dagli altri non è una cosa carina. Vabbè, è una cosa carina, no? Non deve dire lui, non deve dire, no, gli altri, cosa vuoi dire? Ma tutta che se dovesse essere vero, ti conviene cercare immediatamente qualcos'altro, capito? Così dici, guarda, io ho trovato un altro lavoro, a lavorare così non ce ne manco più qua. Amici come prima e basta, dici, a un certo punto. Almeno ti organizzi questi giorni qua, ti fai una passeggiata e chiedi, magari hanno bisogno, capito, una persona, no? Tutti i giorni e sei tranquillo, capito? Ma no, ma del curriculum, voglio capire come vogliono chiudere, o se chiude lui che è in pensione e c'è il fratello che continua ancora, o chiudono totalmente, questo che voglio capire, è questo che voglio capire, capisci cosa ti voglio dire? Voglio capire come vorranno chiudere, perché ha un fratello più giovane. Perché, cazzo, se vogliono chiudere totalmente, dicono, così non va bene. Io li dopo domani sera sono a fare il curriculum e tutto quello che ci vuole, nuovo, mi rompo totalmente di balle. Vado in giro per Sassari e cerco lavoro. Prendo la moto, il bambino all'asilo, tutta la mattina cercando lavoro. Infatti come fare così, ti organizzi subito, porti il curriculum e aspetti che ti chiamino, il primo che ti chiama prendi e vai a lavorare fisso come si deve, non puoi stare a saltare, capito, così. Se ti stanno facendo fare un giorno sì, un giorno no, vuol dire che ci sono problemi di incassi, te lo stai incassando e quindi vuole chiudere, magari non... Vabbè, non è ancora arrivato il grasso a Sassari, quindi ce ne vorrà al minimo 3-4 anni per far sparire tutti i bombolai, quindi a un certo punto, per altri 4-5 anni il lavoro c'è. Non è qua l'altro, la gente preferisce, ancora c'è la mentalità che non viene preferisce una tuffa, una roba così. Il problema è che non è scoppiato il lavoro per noi, non è scoppiato il lavoro perché non ci sono operai, capito? Non ci sono operai, non c'è lavoro per freddo, non per freddo, quando scoppia il freddo vorrai che si legano tutti gli altri, quando attaccano tutti i vostri, viaggeremo solo 50-60 bombole al giorno. E là dobbiamo viaggiare in due o tre, capito? Io ho capito, provo ad andare da Tore, il vero produttore, Tore Boccola, già lo conosci, che parlava a baracchino, quello che c'ha lì la pizzeria. Provo ad andare lì e chiedere lì, magari ti prende subito, capito? Che ti strano. Ma la capisci una volta portava le bombole lui, mi ricordo, e aveva due negozi, uno lì al centro storico e l'altro rimane a vedere, l'altro era lì in corso, all'inizio che era proprio dove, capito? C'era anche l'altro delle barche, anche lui, c'era la B27L, infatti che chiamava il collega per fare le consegne così, per usare il telefono. Poi ne aveva staccato tutto, non ho staccato, non so perché. Guarda, ma adesso si incrofolavano le cose. Cioè, come quella che abbiamo noi sarebbe una cipria che sono tutte uguali. Se non mi sbaglio usava l'FM500S, se non mi ricordo male. adesso usa i telefonini adesso per chiamare direttamente a lui quante pompe ci vogliono, quante non ce ne vogliono, dopo deve consegnare. Il discorso è quello lì. Ciao ragazzo, ciao, ho visto da poco. Perché sono andato 4 o 5 volte lì a mangiare in pizzeria a lui. Ci lavora come un amico lì, ci lavora, che è l'animatore. Figurati. Sì, ce ne hanno, non posso immaginare. Sì, comunque sia. L'hanno chiamato in mille modi in Sant'Emma, però è sempre quello il modello, la ricerca è sempre quello. Che la Silvia ha migliorato, che ha messo la gabbia antistatica sopra il bomba, e poi c'è quei cose in plastica. Cioè, in più questa roba qua. L'ho vista domenica, l'antenna tua l'ho vista. Ho fatto la passeggiata da Madonna della Teloce, poi per non stare a prendere il tram giù vicino a casa di Luca, l'ho preso sotto casa tua. Cazzo, ho aspettato dalle 7 e è arrivato alle 8:10 il tram. Un odore di cera di coso, cazzo, dalla piazzetta di fronte di cannoni, cazzo, me la ammazzente vera. Poi al buio, hai detto, cazzo, si passa qualcuno qua, c'era uno con monopattino che lo faceva dalla prima volta che scendeva giù, poi saliva di nuovo, poi scendeva giù, e io ho detto, questo sta cercando di vendere qualche cosa. Infatti non si è avvicinato a me, eravamo io e un altro aspettando il tram, perché non è arrivato. Ma non è che siamo a un bel punto lì per aspettare il tram, specialmente la domenica, che comincia a essere buio verso le 7. Ma la braccia fa bocca. Ma se non ti avrei fatto salire a casa, non c'erano problemi. Ma lo sapevo. Stavo aspettando un'ora giusto di cosa, ho preso la 25, poi da lì ci sono, è passata la cosa, si è fatto Santa Maria di Pisa, poi Sant'Orsola, sono arrivato a casa, erano le 8:30. Adesso più là, se riuscirà a prendermi questo capo della macchina, un giorno venite a casa, mangiate la pizza, non c'è problema, non venite, e poi magari quando sarete compagno, te accompagno io. E va bene, non c'è problema per quello. Tanto ci vado, lo faccio ogni anno questo affare qua. Di accompagnare i pellegrini dalla chiesa al corso e poi dopo tornare indietro. Questa volta il prete era cane morto, però c'è l'altro, posso darci la bottiglia della birra da 33 a ognuno, c'è l'altro solo il bicchiere, c'è l'altro il bicchiere quasi pieno. E poi ho mangiato due panini, cazzo, c'era la birra che era congelata, io detto, non voglio altro, infatti sono usato a Torre, sono stato a Giovanni, gli ho detto no, sono da casa, gli ho detto se ce la prendevi la birra me la piglio al supermercato, dopo ghiacciata, gli ho detto, oh, questa mi ammazza, gli ho detto, quando arrivo a casa sono morto. Figurati, congelata, non si poteva neanche bere, perché mi deve stare sullo stomaco il panino. Roba croccante al massimo, ma non ti va di nulla, che sono quei tre stronzetti qua, che magari dai, li avrei preso calci nei denti, nel culo, dove cazzo viene bene, perché sono qua e tranquilla come zona, e non ti rompo le palle nessuno. Ci sono quei quattro stronzetti, ci sono, così. Ma adesso sono bravi ragazzi, già non fanno niente. Sì, non è quella, quando si era su, a buio specialmente, forse è stata la via illuminata, non è stato qua, ma siccome era a buio pure, figurati tu. questo che saliva scendeva, io ho detto cucù. Evidentemente si è cercato qualcuno a dargli qualche dose, questo. Da me già non si è avvicinato perché c'avevo la borsa con i ferri, con i ferri c'avevo un paio di cacciaviti e quattro patate di PMR nella borsa. Se si avvicina gli ho detto già lo pungo, non è quello il problema. Con cacciaviti lungo più di 20 centimetri già mi appuntami con la, già va bene, non è che dove mi capita lo pungo a palle, quello che è, non me la fate nulla, ho fianchi. Tu provi a fare un macco. Ah, questo problema, insomma, se facciamo a me, da fare a fare io, un attimino. Poi avevo BMR perché c'avevo la 27, no? Andavamo su canale 7, figurati parlando. Insomma, ho fatto una bella camminata tutto il giorno. Ciao, mi è venuta la sciatica al muscolo mica. Ah, se mi faceva male. Il muscolo e anche la, stava tirando nel sedere, nel fianco, cazzo. Da come abbiamo camminato. Abbiamo fatto introdottare quest'anno. Beh, se non siete abituati a camminare, io stavo cercando di contattare, ma non mi ricordavo la frequenza. La frequenza è su 7. 446.081.25 è la frequenza. Io sono andato a vedere il bambino, sono andato a vedere. Stavo pensando di farmi un'altra carata sul tetto di PMR, ma ho detto ma non far culo, va. Ehi, sulla borsa pianifera ieri sono andato a fare un lavoro, che mi avevo dimenticato il tetto, cazzo, meno male non mi è servito. Cazzo, sono tirato il ginocchio al muro, un dolore, non te lo dico nulla. Ieri, era mezz'ora, ragazzi, ginocchiato. Per poter saltare dal vascone del deposito dell'acqua, dove c'è il motore, figurati. Ho installato una presa, adesso questi giorni devo andare all'appartamento di questa di qui e fare l'impianto elettrico, cambiare tutte le prese, devo cambiarli, metterli quelle Betticino, le living. No, se no che tu non cambi, come fai? Come andare anche a fare questi lavori di elettricista pure, cioè, fare un po' di cose così. E se no come cazzo fai a campare? Cioè. Una volta c'era più lavoro, adesso invece è molto difficile che capita. Anche aiuto elettricista mi andava bene. A farlo, perché già mi piace come lavoro, già mi arrangio, non è che ci voglia questo granché di coso, l'impianto mi riesco a fare da solo, di tutto l'appartamento, partendo dal contatore fino a fare tutto il resto. Insomma, va, tutti si mettono a fare di tutto di più. Adesso chi fa l'elettricista installa anche i cancelli elettrici, quello che fa i cancelli elettrici si mette a fare anche le riparazioni di installazione dell'antenna TV, quello che fa l'antenna TV e pure si mette a riparare anche i televisori, di tutto di più fanno adesso è diventato un togliaio questo lavoro. E infatti di solito quando uno piazza un cancello elettrico te lo installa poi non si può più vedere, in pratica deve andare a telefonare alla ditta e sapere chi è l'installatore per dire di di quel tipo di cancello, capito? Perché l'elettricità che tra installato Marco Voto ci viene a riparare se c'è problemi la scheda, e che non ne capiscono niente. Oddio, c'è quello che lo sa fare, non è che non mi comprende né nulla, c'è quello lì che lo sa riparare bene il caso, perché l'ha fatto lui, e lui, non tutti sono così, Uno è installarlo il cancello, l'altro è invece riparare, capito? Se c'ha problemi la scheda, fargli la programmazione, roba del genere, capito? Non è che vai ordini la scheda nuova, magari il problema non è la scheda ma sono le fotocellule che ristanno, capito? Magari se è entrato qualche topolino dentro, si è mangiato i cavi, capito, ti trovi incappettato e non esci di testa, esci. Sai quante volte è capitato nelle campagne specialmente, dove ci sono quei tombini, di trovarci di tutto dentro, animali, topolini, figurati, un tubo da 20 che entrano, quei topolini piccolini piccolini, mi, e poco mangiano, specialmente i cavoletti che tu lo mangiano, lo vengono. Tu vai a controllare, non arriva attenzione, ma la scheda esce, però nella fotocellula non arriva e quindi devi in pratica tirarne tutto fuori e poi di nuovo ricollegare tutto. Quante volte è capitato? O se no quando ci sono i temporali, ma cosa parte la scheda? Perché scarica lì. Se non ci sarebbe questi problemi qua, il lavoro non ce ne sarebbe per nulla. Già lo so, io già l'ho fatto quel lavoro e adesso non mi interessa per niente fare i cancelli a me, è tutto un casino, capito? Fare i cancelli di TV, l'unica cosa faccio mi piantiamo la TV, se capita qualche amico, se no la gente di fuori niente. Mi è capitato più di una volta che dopo che ho installato l'antenna e cose del genere, prima ho fatto un pezzo e prendono i negri e te ne fanno un altro loro, più verso, hai capito? Dopo che ho installato l'antenna, quindi a me andare due volte non mi dai quello che abbiamo pattuito, che te devo staccare tutto di nuovo, dopo tutto il lavoro che ho fatto lo sa. E quindi preferisco starmene a casa. Di certo non mi faccio prendere per il culo. Cazzo, già basta che prima devi salire sopra il tetto e gira ti vuole ammazzare sopra. Secondo che tetto è. Troppo, c'è gente troppo disonesta. E poi c'è gente che lo puoi fare e gente che non lo puoi fare. Come me che mi è capitato un paio di volte, da quel giorno gli ho detto no, vai e fatelo fare, gli ho detto vai, chiamati un altro tecnico, io non so fare niente, gli ho detto, ma tu sei bravo, non me ne frega niente, gli ho detto, tu almeno tu non paghi, gli ho detto, quindi quando uno non paga, Antonio non ci viene a fare niente. È troppo bello così, gli ho detto, sta cosa partetto con la scala, rischio di ammazzarmi. E poi scendo giù, una volta che ho finito, per dire io ho pattuito €50 e tu me ne dai altri 30, magari. No, non va bene così. Allora, dopo che ti minacci, che sali sopra, gli tracci tutto, gli butti tutto dal tetto, vedrai come pagava. Ma devi stare sempre a farlati, capito? Allora, ho preso, ha mollato tutto, se mi faccio mio qualche amico, installazione dell'antenna e basta. No, Marco, se lo faccio solo per me, rischio solamente per me, quando salgo sopra il tetto salgo da solo. Se abbiamo detto mio lo conosco bene e lavoro bene. No, Marco, la gente... Bisogna di non far pensare che si niente. paese di Azimon, ma ho bisogno di una partenza. Non sono una persona che non puoi fare niente. Sì, infatti, anche un sacco di gente così mi dice, gli dice, maestro, non sono uniti, anche gente di Sassari è capitato. Avevo chiesto di fargli di mettere il cavo nuovo, compro il cavo nuovo, cazzo mi ha bruciato. Capito? Un cibimmi. E infatti non ci parliamo per quello. Ho detto, la prossima volta che mi metto a chiamare tuo padre, detto, il capo di ventiero che mi deve dare più metto il resto, mi pare, te lo dico io. Augurati, detto, che non ti si incendi niente, gli ho detto. Perché ero già tentato a salire adesso a passare il cerchio con la scala. Così almeno mi avete pagato. Dopo bello così, a fare impianti a gratis. Troppo bello, col dell'acqua, troppo bello, È appunto per quello. È capitato così, non l'ho più visto né sentito, grazie a Dio. Poi se lo vedo manco lo saluto, figurati tu. A farsi grande con il culo degli altri, troppo bello. Ma paga mai? Che schiavizio di merda, però è una gentaglia, proprio. Canto di debutappa che sono da fare, sai? Siamo amici come prima, finito. Cioè, quando ti ho portato la roba ti ho chiesto quanto ti devo dare? No. Sì, soldi. E amici come prima. Io non devo bisticciare con te, pare di nana, ma assolutamente, io non ne voglio manco sapere. Non ne voglio di questa storia qua. Cioè, la gente veramente si perde un amico per una stronzata del genere. Ma per cosa? Ma perché devi fare questo? Ma la mano non l'ho più visto, l'hai sentito. Ma con gli auguri della cosa gli ho fatto sul cellulare, quindi no, non me ne fotte più di tanto. Oh Giulia. Va bene, dai. Mi allontano che devo fare una cosa. Chiamo dopo, dai, ti chiamo dopo. Se ci sono. Ok, a dopo, ciao. Perché? Oh, Antu. Prova. Ehi, a parte. Mi senti? Sì, che ti sento. Ma dimmi come se ne leva qua, non lo so. Un po' Bartolino, se può normale, dai. C'è ancora il bip, guarda un po'. No, non c'è più. Chiama di positivo, dai. Oh. Cazzo, mi mare un po' robotto, mi mare. Attenzione, Mumurino, capo capo. La popolazione è normale. Positivo, dai. Vai. Hola, hola, hola. Sì, sì, sì. Va bene, ma va tutto sì. E allora, per forza. Se no si tende via così, nel gnogno. E cappa, proprio. Ma con poco reddito, con tutta l'antalati con le male girate, solo. Luca. Luca. Positivo. Immagino, è affidinato, non vi sa, più vi messo e peggio è. Ciao, non sto bene, se voglio essere un po' di domani sono libero domani un po', però devo lavorare, adesso la sera, e non è neanche un po' di settimana, non è, sono con la mia cognata, sono con un loro bambino. Meno male, dai. Prova, prova radio, prova, 1, 2, 3, ma fa schifo la radio. Un po' ci sto fuori, cara. Ah, ho capito, fa schifo allora. Ti sente, ma ci sto fuori, cara. La mia bella. Che va d'oggi. Con l'MB più 4. 87 MB più 4. Colonnina esterna ascoltandoti. Ora adesso meglio è. È un po' meglio, se già lo credo. Questo è il MB più 4. Ha cambiato dal giorno alla notte. Tu ci sono i capelli. Sì, vabbè, comunque per capire se era questo qua il microfono, capito? Quando vado a giorno la notte? È stazionaria o ne ho? Bravo, io adesso sono a posto. Ma non capisco perché il nostro letto mi stia ritornando indietro. Non è più questo una cosa. E bu. Come ho freddo la testa, bisogna dare una triurata. Ibu. Cioè, mi ha pigliato un po' come vento, Eva. Sempre perfetta. E che fatto? Io la lascio così. Oh cazzo, mi sono troppo indietro questi picchi di informazione. Oh va! Ma va detto, no, vabbè, tu non lo puoi vedere. No, tutti là da accendi. Sono buone sono le trasmissioni. A voglia. Che la mettono indietro? Cosa tu? Che la mettono indietro, torna un po'. Allora proviamo a attaccare il BIM 131 a vedere. Facciamo scaldare, non è niente. Vabbè, se non lo fa anche con questo. Prova. Riesco a scaldarlo un attimino. Sono qua con la sciupa poi. Vuoi scaldare un po', solo no. Non ho mai dato a nessuno la verità. che è bello, che è bello. No, io non attacco, non so ma con quanti vate sta andando, boh. Non so così, boh, quanto sta andando. Ero qua, dimmi. Ho detto, sta andando, sì. Ora. Allora, per mettermi un poco. Che sta controllando un attimino il cane, sta controllando una cosa, aspetta. Fare. Cazzo, che sono la pizzeria, lo mando a cagare, no? Non sono una ruota di scorta, io, no? A me 2 settimane potevo darmi da lavorare, invece sono una ruota di scorta. Tutto pulito. Meglio così, ma non è vediamo che si rognosi, se no di guasa rubescio di guasa. Per carità. Che ammazzo un po'. Hola. Hola. Un po' di meno fatto, ma se no lo pompa troppo. Questa è la posizione. Scappa. Questa è la... Ora, sto a prendere. Scappa. Adesso, della pizzeria, ho domato tutto quanto a quel paese, se mi torna a telefonare. Che ho seguito una cosa di scorta dentro, no? Tu magari capito male tu, aspetta, non essere precipitoso. Fatelo dire da lui. Oh no, te lo chiedo male, no, quella è una cosa a parte. Sto parlando di un altro. Quella della pizzeria ne fa la fine di fare a cena, ne fa. Che l'ha mandata a quel paese, ce l'ho mandata. E come? Per farti le belle cose mi chiami. Cioè per darmi un posto di lavoro, per aiutarmi non mi chiami. Serata non te ne faccio, adesso faccio anche quello della pizzeria, così che non sono la sua ruota di scorta, non sono, se sono senso proprio che lavoro e cosa ti dico, guarda, no, ti dico, no, non ci vengo, cioè, prima quelli stronzi due se ne sono andati a Napoli, perché non avrebbe dovuto neanche far lavorare più una persona del genere, se ne sono andati a farsi la vacanzina, e noi gli abbiamo coperto il culo, io e una ragazza. Adesso sono tornati questi e saranno questi, ma di cosa si fa ripetere? Ah, loro se ne vanno in vacanzina, ritornano. E io se ne vanno torno in vacanzina devo coperti il culo a te. Vai a cagare, vai, che non sono la ruota di scorta di nessuno. Così convinti, ma te, se prendi mi baro il culo, non gli ho detto l'altro giorno. Ma non è vero, come che ti abbiamo trattato male, sì. Mamma mia, quanto mi dà in testa questa gente. Non te l'abbigliante, c'è tutti così. Anche a Marco l'avevano preso, fisso, coso, per lavorare in questo bar. Vabbè, lo stavo facendo sino a quando iniziava l'università, perché se è iniziato l'università non manda più, però intanto voleva coprire per l'estate, l'hanno preso perché aveva bisticciato con questa cameriera e ce l'aveva mandata via. Adesso questa cameriera è ritornata, siccome c'erano 2 anni, ha detto Marco devi avere pazienza, ma io preferisco Lei che c'è tanti anni, c'è la precedenza nei tuoi confronti, capito? E ce l'ha mandato. Allora, ma te lo volevo mandare scherzo, tuo figlio, guarda che non so quella roba di scordato, ma che stai tirando per il culo? Che gente di merda che c'è in giro già. Oh Gianni, e beh. Siamo nei complici, come fai a ridere? Si guarda, loro lavorano così, guarda, non hanno una compagnia. Gianni. Sì, allora. Mi senti? Sì. Che vado oggi? Come mi senti? Normale. Che sei? Non ho capito. Luca. Ah, Luca, non l'avevo riconosciuto, mi sembra Marco Cotto. La modulazione è buona, però è normale, non è amplificata. E ok, da. Era giusto per capire se mi... Se, vabbè, non è male comunque, dai. No, con che microfono stai uscendo? Normale. Oh. Ciao. Non mi ricordo il nome. Ma tu vuoi? Guarda WhatsApp. Ma WhatsApp le compra. Guarda WhatsApp, ho detto. Quando hai cosa ti ho coperto il culo, però ti ho coperto. Ma che si sono tornati non ti servo più, ma perché non te ne vai a cagare? Cioè quando eri in merda a casa tutto andava bene. Ma cazzo, cioè, a me non dire cazzo, diciamo una giornata in più, extra, no, niente. Ma te glielo dico quando lo trovo, in faccia. E poco sono capito in atto, mi sono venuto da me. Tu non te la prendere, tanto non è vale la pena farci il fegato l'altro. Io sono come quello che aspetta il fiume. Prima o poi ti manda a cagare, ti manda. E a quello lì gliel'ho fatto ben volentieri, dato che no, serata, non te ne faccio, c'ho il bambino. Non si è mossa la virgola da casa. Ho detto no, e cos'è? Per farti grande? Vuoi a me per farti grande e cosa? Per farti la serata, karaoke e cosa? Cioè, per farmi dare, io gliel'ho proprio detto a lui, per farmi dare un posto di lavoro, perché sono in merda e tutto, non si sente una telefonata, non si sente, ah no, ma basta arrangi, ma chiamo un altro, ma chiamalo un altro, ma è ammazzati. Calma. E quello lì farò così, mi lo sto aspettando, non me ne frega niente del 30 euro. Non me ne frega niente, ti dirò, vai a ammazzati che non sono la tua ruota di scorta, anche perché modo come gli hanno fatto i suoi amici, i suoi operai, i suoi come ti chiama. Cioè prima se ne vanno tutti e due, mancano in due, e se ne vanno a farci la vacanza, faccio mandarmi in Asuglia. Ritornano e a te non ti chiama più, invece di ricordarsi che gli hai tolto la merda. Ma perché non va a cagare, cazzo, imbecille? Tu, cercatene un altro, già devo dirti. Se non ti va bene, te ne cerchi un altro e buonanotte. No, non hai capito. Non ho mai compreso, sto parlando di altri lavoretti, non sto parlando di quello là, che faccio un giorno sì, un giorno no. Sto parlando di altri lavoretti, tipo quello della cattedria che mi ha chiamato, che era in merda, ha chiamato me, e a me cazzo c'è adesso pure, mi metto da parte, non mi chiama più. Ho bruttare male. Solo quando mi serve. Ma ce l'ho dato io tanto. Io ho due occhi quanto tanto. Ah, sei della merda, vai a ammazza, ti va, se non ti do più una mano, non mi chiamare più a me. Perché sono così, poi quando sei emotivo è tutto. Cioè, io la verità, se uno mi mette in merda così che se ne va e si fa le vacanze, e poi ritorna così, gli avrei detto, qua non ci venire più, gli avrei detto. Invece no, gli ha fatto rivenire a questi, gli ha fatto tutto. Cioè, veramente. Cioè, a prendere, ce l'hai saltato il pizzeria, vai chiedi magari dei tuoi altri a faccia sua. Sì, no, me l'ha fatto il gesto, me l'ha fatto il gesto, me l'ha proprio fatto il gesto. Prova a venire sotto casa a vedere, ce ne sono un bel di forza pizze che vanno, tornano, stanno sempre andati. Grazie a Dio, io ho fatto dei sacrifici grandissimi, ho fatto, la patata me la sono presa. Io posso andare a lavorare anche, ma la patata non so se c'è, cioè, cosa. Io non ci ritorno più lì, mi manda a fare, mi manda a colmare, e cosa, e ve lo dico pure, cosa già vai, merda, sì, dico no, non mi chiamare più, le dico, non mi chiamare più. Beh, ma tu non glielo detto? Ancora non gli ho detto niente, io gli aspetto al banco, però ti dico come che mi trovo, mi trovo dentro, perché... Cioè, quando vedo queste bestie che hanno più di me, hanno, e non vanno a lavorare, non fanno niente, fanno di giochi e tutto, cioè, e fanno il culo del bello e brutto a tempo, io morendo di fame, cioè, io proprio morendo di fame, io senza lavoro, e andando a sacrificarmi, eccetera, eccetera, cazzo, mi manda in bestia, mi manda. Ma io ti ho augurato di trovare un ufficio di lavoro e così non ci piace più, non ce ne mai più, allora mai ci lavori così. Ma appunto, non ho la possibilità, già, non ho la possibilità, se no me l'avrei fatto io, a conto mio, a conto mio mi avrei fatto l'azienda, a conto mio. Ma quello che voglio fare io avrei piegato le gambe anche a questi strumenti. Cosa c'è Gabri? Portati la stufa. Non lo santo che la... Aspetta un attimo. Già, ci sei. Sì. Hai chiamato una toccata una cosa. Io ti giuro che l'avrei voluta far pagare a un mese di gente. E sai quando è ingoiato di ruspi io lavoro, uia! Lo so, soprattutto a qualche uno, a qualche uno che mi ha preso, cioè, a gente che mi ha pigliato un maruguno. C'ho veramente il veleno, c'ho il veleno in corpo, c'ho un qualche uno. Ti giuro che se avessi avuto soldi veramente, ma soldi, davvero vero, io a questi gli avrei fatto pagare, avrei salvato, va bene, perché li avrei fatti io le attività. Quando mi hai domandato a chiedere lavoro, gli avrei detto vai, vai a pedalare, vai, ammazzati. E tu, purtroppo non ce li hai e non puoi fare nulla. Thank you.